Letture di Radio 24. A 3 anni dalla pubblicazione della sua autobiografia, Ornella Vanoni torna a raccontare di sé nel libro Piccole storie di Ornella V. Brevi racconti, storie vissute o soltanto immaginate, che si uniscono ai ricordi. In uno di questi, Storia di un incontro, Ornella traccia un bilancio della sua vita alla vigilia del suo 80° compleanno. Se non proprio tutto, ho avuto molto dalla vita. Succede che a un certo punto, quando gli anni sono molti e le stratificazioni diventano pesanti, troppi cambiamenti, troppe corse, troppe emozioni forti di ogni tipo, allora si pensa: accidenti, non mi stupisco più. E allora la cosa può essere molto grave. Come riempirò il tempo degli anni che mi restano da vivere, se sento così? Così incominci a ricordare che c'è qualcuno a cui pensi spesso, ma non hai mai conosciuto. Lui ti può salvare, lui può ridare alla tua vita quella gioia, quello smalto che appunto ha perso. La persona di cui parlo è Cristo, così felice da amare, così dolce da seguire. Parlare con lui, aprirgli il cuore, chiedergli consiglio come a un padre, un amico, un fratello, come ad un amante. Mettere la tua mano nella sua e farsi guidare da lui e... paf! Come un miracolo arriva il miracolo dell'amore, della luce, della gioia. E tutto diventa nuovo, perché non hai più paura del tempo. Gesù riempie il tempo, ne cambia quasi la scansione, rende tutto più morbido. Il segreto della vita è in lui. Sei tu che mi stravolgi l'anima. Avete ascoltato la lettura del racconto Storia di un incontro dal libro di Ornella Vanoni, Piccole storie di Ornella V. Giulio Perrone editore, 96 pagine, 10 euro. Senza pensarci su, forse hai ragione tu, abbandonarsi a volte aiuta. Sei tu la vita che mi merito. Letture di Radio 24. Si intitola Paura, la prima autobiografia di Dario Argento, nella quale il maestro del brivido racconta le sue passioni, ma anche le sue paure, quelle vere, dalle quali a volte arrivano le ispirazioni per i suoi film. Come in queste pagine, nelle quali Dario racconta com'è nata l'idea di uno dei suoi horror più famosi, Tenebre. Mi trovavo negli Stati Uniti in attesa di capire se qualcuno dei miei progetti riuscisse finalmente ad andare in porto. Soggiornavo a Los Angeles, in un lussuoso albergo pieno di gente famosa. Questo va specificato perché più un hotel è frequentato da VIP, più il personale è attento a garantire la massima riservatezza agli ospiti. Un giorno squilla il telefono della mia stanza. Dalla reception mi fanno sapere che in linea c'è qualcuno che non ha voluto rivelare la sua identità e vuole parlarmi. Dico di passarmi la telefonata e all'altro capo del filo sento la voce di un uomo. In un impeccabile inglese, questo tizio mi riempie di complimenti. Dice di essere un mio ammiratore. Mi fa molte domande, anche di natura tecnica, e io inizialmente penso a un giornalista un po' squinternato. Nel corso della settimana, ogni pomeriggio intorno alle 16, ricevo delle telefonate simili. Mi rendo conto che effettivamente questa persona, a cui chiedo invano le generalità, conosce davvero bene i miei film. Recita a memoria delle battute tratte da Suspiria, descrive nel dettaglio intere sequenze. Comincio a sentirmi un po' a disagio. Chiedo alla reception di non passarmi più telefonate anonime e mi assicurano che non verrò più disturbato. Il giorno successivo, in effetti, il mio telefono resta muto. Ma quella stessa notte vengo svegliato da un trillo. Alzo la cornetta ed è lui. Mi dice che voleva soltanto parlare con me. Perché io non voglio parlare con lui? Senza chiedermi come abbia fatto a bypassare la reception, stacco il telefono e quella notte non chiudo occhio. Da quel momento inizio a essere bersagliato dalle sue chiamate, a qualunque ora. Cambio stanza e numero di telefono, ma lui in qualche modo riesce sempre a scovarmi. «Vuoi sapere come mi chiamo?» mi domanda una notte. Io resto in silenzio e lui bisbiglia nella cornetta: «Puoi chiamarmi il grande punitore». Anche se il direttore dell'hotel mi dice che non è il caso, che si tratta solo di un povero pazzo, Io mi metto in contatto con la polizia. Ho registrato alcune sue telefonate e le faccio ascoltare alle autorità. Dicono che sorveglieranno la linea telefonica e che comunque il circondario è già ampiamente vigilato dalle forze dell'ordine. Nell'ultima sua telefonata, l'uomo mi dice che il giorno più bello della sua vita sarà quello in cui riuscirà a uccidermi e mi assicura che ce la farà. Poi, così come era comparso, il grande punitore si dileguò. Ma il terrore che era riuscito a trasmettermi era sempre presente e nelle settimane successive, dopo aver cambiato hotel, spostandomi in tutt'altra zona della città e infine dopo essere rientrato in Italia, continuò a lavorarmi dentro. D'impulso presi a scrivere una storia che si intitolava «Sotto gli occhi dell'assassino». Peter Neal è un autore americano di romanzi gialli che non appena arriva a Roma per promuovere il suo nuovo libro comincia a essere perseguitato telefonicamente da uno psicopatico. L'uomo non si limita a tormentarlo, chiamando lo scrittore «grande corruttore», ma mette in atto una serie di omicidi che sembrano collegati al suo ultimo romanzo. A un certo punto viene rivelata l'identità dell'assassino. È un giornalista televisivo puritano che ha criticato Neal per le sue opere in cui inneggia alla perversione umana. Ma c'è un colpo di scena. Dopo la morte del killer, gli omicidi continuano. Si scoprirà ben presto che c'è un secondo assassino e contro ogni regola del giallo classico è proprio lo scrittore. Con il mio nuovo film volevo un po' prendermi una rivincita su tutta quella parte della critica che mi accusava di raccontare storie immorali e misogine, di essere un mostro solo perché portavo sullo schermo tutta quella violenza. Non a caso Tenebre, quello fu poi il titolo definitivo, anche se si tratta di una vicenda ambientata alla luce del sole, sono le tenebre dell'animo quelle che mi interessavano, fu la pellicola col maggior numero di omicidi che avessi mai diretto. In una scena che a ogni passaggio televisivo è stata puntualmente tagliata, Veronica Lario, all'epoca compagna e in seguito moglie di Silvio Berlusconi, veniva massacrata in un tripudio di sangue. Fu un ritorno alle atmosfere dei primi film, ai traumi rimossi che prepotentemente riaffiorano. Ci sono i flashback, le lettere anonime e molti altri elementi a me cari usati però in maniera diversa da come avevo fatto in passato. Il mio obiettivo era ridisegnare la grammatica della detective story tradizionale, dando forma a un plot provocatorio, eccessivo. Tenebre uscì nei cinema il 28 ottobre 1982 e presso il grande pubblico fu un successo. La critica ovviamente non apprezzò i miei sberleffi e la censura mi impose per la prima volta il divieto ai minori di 18 anni. Se davvero fossi stato un sadico come i personaggi di cui raccontavo, molti fra i miei detrattori sostenevano questa tesi, mi sarei potuto vendicare inventandomi chissà quale efferatezza contro quei critici. Invece proseguii incurante sulla mia strada. Mi dissi che in fondo il modo peggiore per torturare chi non mi amava era continuare a fare cinema. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Dario Argento, Paura, Einaudi, 354 pagine, €19,50. Mentre negli ultimi anni il vinile è tornato prepotentemente di moda, nel senso che dietro al ritorno dei vinili viventi c'è una prepotenza mediatica in grado di creare un fenomeno dal nulla, è abbastanza difficile pensare che un altro formato caduto in disuso da tempo possa essere riesumato. Sono le Stereo 8, quelle ingombranti cassette che già negli anni 60, molto prima che la Philips brevettasse la sua Compact Cassette, permettevano di ascoltare musica in auto. Anche se la qualità del suono non era al massimo e l'affidabilità di cassette e lettori era piuttosto scarsa, le Stereo 8 sono state il primo strumento che ha permesso di ascoltare gli album durante i viaggi e nella musica, nel loro piccolo, hanno rappresentato una rivoluzione. Molto prima che le cassette diventassero popolari, l'alternativa al vinile negli anni 50 e 60 era rappresentata dalle Stereo 4 e dalle Stereo 8. Anche se il sistema a quattro tracce è stato il primo ad essere sviluppato, la sua diffusione è stata frenata da una serie di problemi di affidabilità che hanno impedito alla piattaforma di prendere piede tra gli appassionati di musica. E se confrontati con i registratori a bobina popolari all'epoca, la qualità e la fedeltà del suono risultavano scarsi. Tuttavia, queste cassette traevano un grosso vantaggio dal fatto di essere compatte e portatili, il che significava che potevano avere un grande potenziale sul mercato automobilistico, allora in forte espansione. L'opportunità arrivò da un uomo d'affari, Earl Muntz di Los Angeles, che lanciò il suo Stereo 4-Track Cartridge System, garantendosi i diritti musicali dalle maggiori case discografiche. Dopo aver ottenuto un certo successo in alcuni stati, Muntz decise di espandere la sua operazione, firmando un contratto con l'imprenditore Bill Lear per installare il suo sistema nelle cassette Lear Jets. Lear però non era soddisfatto della qualità e chiese a un tecnico del suo gruppo, Richard Krauss, di sviluppare un sistema più solido. Krauss progettò il sistema a 8 tracce, riducendo la complessità e risolvendo il problema della stabilità, grazie a un meccanismo più efficiente inserito all'interno della cassetta. Venne chiamato Stereo 8, nome che stava a indicare che 8 tracce potevano essere incise in 4 programmi di 2 tracce ciascuno. Il prezzo da pagare per questa maggior capacità era una leggera perdita di qualità del suono e un aumento dei rumori di fondo. Un vantaggio, invece, era che grazie a un minuscolo contatto elettrico posizionato nella giuntura del nastro, le stereo 8 passavano automaticamente da una traccia all'altra, cosa molto utile negli impianti installati sulle automobili. Tuttavia, dato che la maggior parte della musica era concepita per essere ascoltata sui 2 lati di un LP, nelle cassette stereo 8 a volte bisognava cambiare l'ordine delle canzoni e a volte anche dividerle, in modo da adattarle al formato a 4 programmi. Le tracce più lunghe spesso venivano divise in 2, le canzoni più brevi venivano ripetute e a volte c'erano lunghe pause di silenzio tra una canzone e l'altra. Esistono perfino delle versioni esclusive di alcune canzoni, presenti solo sulle cassette stereo 8, come ad esempio un assolo di piano nell'album Berlin di Lou Reed e un inedito assolo di chitarra nell'album Animals dei Pink Floyd. Dopo aver sviluppato questo nuovo sistema, il passo successivo per Lear fu quello di convincere il management della Ford a inserire i lettori stereo 8 all'interno dei modelli Mustang prodotti nel 66, le Thunderbirds e le Lincolns. La relazione commerciale con la Ford risaliva agli anni 30, quando Lear aveva contribuito alla nascita della Motorola, che forniva autoradio per le Ford. Nel 1967 la Ford presentò i lettori stereo 8 come optional per le proprie vetture, rendendoli l'accessorio più desiderato dai nuovi acquirenti di automobili. Solo nel primo anno vennero installati 65.000 lettori, tutti sviluppati dalla Motorola. Il primo lettore Learjet Stereo 8 aveva dei comandi molto semplici, il che permetteva di suonare le cassette in macchina senza che il conducente fosse costretto a distrarsi durante la guida. La Ford, da parte sua, convinse la RCA Victor a produrre 175 titoli del suo catalogo nel formato stereo 8. Nei 15 anni successivi, le cassette stereo 8 ottennero un significativo successo negli Stati Uniti e furono le prime cassette a conoscere una diffusione di massa. All'inizio ebbero anche un breve periodo di popolarità in Inghilterra, ma il formato era destinato a rimanere relativamente sconosciuto nel resto dell'Europa. Gli ultimi lettori sono stati venduti nei primi anni 80, e per poterli utilizzare oggi c'è bisogno di un continuo servizio di manutenzione. Tra i problemi più frequenti ci sono la sovrapposizione delle tracce, un rumore eccessivo causato da problemi meccanici del lettore o il nastro che perde tensione e rallenta. E può capitare anche che una traccia finisca, ma quella successiva non inizi. Sebbene oggi sia universalmente riconosciuto come un fallimento, per un certo periodo il formato stereo 8 conobbe una grande popolarità, lasciandosi alle spalle una vasta gamma di pezzi che oggi hanno un grande valore collezionistico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tim Naylor, 8-track cartridge stereo, dal numero di marzo della rivista Record Collector. Nel panorama della canzone d'autore italiana ci sono stati artisti che hanno raggiunto una grande popolarità e che poi, per qualche ragione, sono stati dimenticati. L'oblio è il male peggiore in cui scivolare, scrive Enzo Gentile nella prefazione al suo libro Lontani dagli occhi, dedicato a 5 grandi cantautori ingiustamente dimenticati: Fred Buscaglione, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Nino Ferrer ed Herbert Pagani. Il quadro che emerge in molti di coloro che furono protagonisti,